Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, rientro in corsa alla conduzione di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Prendo il testimone da Marta Cagnola che ha curato queste prime puntate della stagione. Grazie Marta, grazie davvero per la tua disponibilità e grande professionalità. Acqua del rubinetto o in bottiglia? Un dilemma delle abitudini e della spesa quotidiana molto sentito in questo momento in cui le istanze ambientaliste sono arrivate alla coscienza di molti. Ebbene, ora nella disputa scende in campo, pensate, un colosso della grande distribuzione. A favore di quale acqua lo scopriremo tra pochissimo nell'approfondimento della settimana. Parleremo poi di grandi marche, di usi e abusi della formula low cost e per il focus sui trend di consumi aumentati, quando a fare tendenza sono gli effetti speciali. Prima però ci sono le notizie e curiosità della settimana. È guerra in Francia tra il celebre maestro calzaturiere Christian Louboutin e il rapper francese Hulk Henry. Pomo della discordia, la canzone Sexy Leggin and Louboutin e il suo video, che mette in mostra una versione contraffatta delle celebri scarpe dalla suola di lacca scarlatta. Un italiano su tre compra regolarmente prodotti biologici, un settore che chiuderà il 2010 con un aumento degli acquisti del 9%. Trainano il mercato, secondo i dati Coldiretti, i prodotti per l'infanzia, che registrano una crescita del 30%. Si terrà dal 2 al 6 novembre a Rimini, in contemporanea a Ecomondo, la scuola Mercati e Stili di Vita Sostenibili, promossa dall'Università di Bologna, è aperta a studenti e operatori del settore. Spopolano a Londra i tacchi alti da uomo. Scoperti dal glam rock 30 anni fa, i Man Heels, o Mills come li chiamano sotto il Big Ben, sono il trend di stagione e i grandi magazzini Selfridges in Oxford Street vantano un assortimento sempre più consistente. Prosegue fino al 17 ottobre Equo per Tutti, la manifestazione dedicata al commercio equo e solidale. Promossa dalla catena Fair Trade Altro Mercato, prevede iniziative, eventi e degustazioni per promuovere le filiere del settore. La borsa della spesa. Sapete quanta strada deve fare l'acqua per arrivare a casa nostra? L'avrete sicuramente riconosciuta, era Luciana Littizzetto, testimonial di Coop, anche in questo nuovo spot. Ecco dunque svelata l'insegna che scende in campo per un consumo responsabile dell'acqua, a sostegno dunque dell'acqua del rubinetto. Acqua di casa mia, questo è il nome della campagna, costo 1 milione di euro, campagna che invita a riflettere su questi numeri, esposti in bella vista sugli scaffali, insieme, va detto, alle caraffe filtranti a marchio Coop. Con 195 litri a testa all'anno, gli italiani sono i primi in Europa per il consumo di acqua minerale, i terzi al mondo dopo Emirati Arabi e Messico. Dalle fonti alla tavola il trasporto muove 480.000 TIR. Messi uno accanto all'altro formano una fila di 8.000 chilometri, come Roma-Mosca andata e ritorno. Per Coop l'acqua in bottiglia vale 200 milioni di euro di fatturato, 600 milioni di pezzi ogni anno. Quest'anno però il settore registra una flessione vicina al 5%, con margini che vanno assottigliandosi. Ci aspettiamo un calo di vendite del 10%, ma lo consideriamo un investimento, ci dice Vincenzo Tassinari, presidente del Consiglio di Gestione Coop Italia. Lo abbiamo incontrato, ecco che cosa ci ha detto. Non facciamo operazioni di contingenza, di opportunità, ma operazioni che investono nel futuro e soprattutto a favore di giovani consumatori. Di consumatori noi abbiamo 7 milioni e mezzo di soci che ci dicono le esigenze che sentono e che avranno nel futuro. Noi non facciamo una scelta, fra virgolette, talebana, quindi di escludere le acque minerali delle marche industriali, assolutamente no, ma di lasciarle libere e consapevoli ai nostri consumatori nella scelta. È corretto dire che voi intercettate un trend, che è quello della diminuzione del consumo di acqua minerale, e premete sull'acceleratore verso il futuro del consumo di settore, che sarà funzionale? Sicuramente sì, noi usciremo sicuramente dalla crisi, però dalla crisi usciremo con un consumatore molto cambiato, strutturalmente cambiato. E allora vince sicuramente sul mercato quel mondo delle imprese che riesce a interpretare questo cambiamento strutturale. È indubbio che avremo un consumatore molto più attento, molto più rigoroso e che vorrà comunque eliminare gli sprechi. E allora io penso che chi intercetta queste tendenze dei consumatori e dei giovani consumatori sicuramente investe per il futuro. Mineracqua, la Federazione delle Industrie delle Acque e Minerali, per il momento non si schiera. L'abbiamo contattata, nega una guerra in corso, ma voci di corridoio dicono stia preparando una campagna. Cambiamo argomento, anche se restiamo in tema grande distribuzione, dove è iniziata la riscossa delle grandi marche sulle cosiddette private label, i prodotti con il marchio delle insegne. Ebbene, nei primi 8 mesi del 2010 le industrie grocery associate a Centromarca hanno registrato una crescita di vendite dell'1% a fronte di una flessione dell'1,4% del largo consumo confezionato. Per Luigi Bordoni, presidente di Centromarca, la riscossa è frutto di investimenti pubblicitari e contenimento dei prezzi. La comunicazione, quindi la pubblicità, gli investimenti delle nostre 200 industrie di marca sono mediamente del 9% nel primo semestre di quest'anno, e che è circa il doppio dell'andamento di mercato, quindi questo mi sembra molto significativo. Nel contempo i nostri prezzi sono rimasti praticamente fermi, parliamo sempre mediamente, siamo allo 0,1, quindi fermi contro l'1% della media grocery e l'1,7 dell'indice generale dei prezzi Istat, quindi sotto l'inflazione notevolmente e anche sotto l'andamento del mercato. Ora con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli, parliamo di low cost. I luoghi comuni sono duri a morire. Il termine low cost, cioè costi bassi, è ormai preso a pretesto per dire ai propri clienti: abbiamo i prezzi bassi, ma tradotto bisognerebbe dire low price, non low cost. La Newton Compton, editore di libri, ha lanciato un'apposita linea denominata appunto low cost. Si tratta di libri stampati, rilegati, illustrati come tutti gli altri. Probabilmente i produttori e i retailer che fanno veramente low cost hanno i capelli diritti nel vedere simili abusi, ma il passaparola è drammatico e ormai non lo ferma più nessuno. A volte sono però le stesse aziende che si riconoscono nel sistema del low cost a far confusione sulla loro stessa filosofia. Prendiamo il caso di Ryanair, che nelle intenzioni del suo fondatore è pronto a sgominare le ultime società rimaste di bandiera sul mercato. Michael O'Leary ha pubblicamente dichiarato: possiamo tranquillamente volare con un solo pilota anziché due, al limite istruiamo una hostess che può anch'essa riportare a terra l'aereo. Quel riportare a terra l'aereo dà i brividi a ogni persona sensibile. Come fa O'Leary a rinunciare alla sicurezza dei suoi velivoli solo per risparmiare sui costi e sui salari dei suoi dipendenti? Va bene lavorare sul pricing della franchigia, sull'euro che bisogna sborsare per andare alla toilette, va bene pagare i giornali, i panini e l'acqua minerale, ma Ryanair non ha chiesto ai suoi clienti di pagare in più per avere il secondo pilota a bordo. Toglierlo è contro il buon senso, il low cost non c'entra proprio nulla. Che strano. È proprio il fondatore riconosciuto del low cost ad aver ammazzato il termine da lui stesso coniato. È raro che capiti, non credete? Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, seconda parte come sempre dedicata all'analisi delle nuove tendenze, in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, bentornata. Grazie, bentornata anche a te. Oggi parliamo di consumi aumentati, parliamo cioè di prodotti, servizi e campagne di comunicazione in cui la tecnologia diventa protagonista, cambiandone i modi d'uso, dalle pubblicità ai videogiochi in 3D ai QR code, quei codici a puntini che, se inquadrati con il cellulare, mostrano contenuti multimediali. Ma i consumi aumentati sono anche e soprattutto quelli in cui entra in gioco la cosiddetta realtà aumentata, quel mix di mondo mondo reale, realtà virtuale e informazioni internet in grado di creare dei veri e propri effetti speciali nella vita di tutti i giorni, dalla moda all'arte. Patrizia. Direi di cominciare dalle parole. Realtà aumentata. Aumentata da cosa? Con cosa? Con i linguaggi grafici e le rappresentazioni digitali del web. E vediamo subito con qualche esempio che cosa succede. Succede che questi linguaggi diversi si sovrappongono, cioè la realtà e il digitale si potenziano a vicenda. Quindi la realtà che vediamo viene sovrascritta e caricata di contenuti digitali, per lo più 3D, quindi diventa una realtà più densa a strati. Per spiegare qui in radio come funziona la realtà aumentata, scelgo una delle applicazioni più inusuali, il tatuaggio. Immaginate di vedere su un braccio un semplice quadrato nero. Bene, quel quadrato è più di se stesso, è più di un segno, perché rimanda ad altro, è un marker, cioè un codice pieno di informazioni, analogo per funzione, per capirci, a un codice a barre. Puntando la videocamera del nostro smartphone con apposita applicazione, noi vediamo un dragone colorato che vola muovendo delle gigantesche ali, per esempio. Questo è un vero effetto speciale, come dicevi, ed è diverso dai QR code che siamo già abituati a vedere un po' dappertutto, dalle riviste per scaricare dei trailer di film, alle pubblicità perfino sugli autobus, ai packaging di prodotti come shampoo, CD musicali per scaricare video, eccetera, perché questi consentono, tramite un link che rimanda a un sito per esempio, di visionare certamente contenuti aggiuntivi e multimediali, ma con questo passaggio. Invece con la realtà aumentata noi vediamo proprio in un gioco di sfondo figura la realtà come sfondo, e la figura è un'animazione che vediamo direttamente sullo schermo sovrapposto. In questo momento la realtà aumentata significa soprattutto applicazioni per mobile, grazie alle quali vedo più di quel che vedono i miei occhi mentre guardo quello che mi sta intorno. Quindi, per esempio, punto verso il cielo e vedo sullo schermo le costellazioni disegnate, graficizzate, che sono sovrapposte al cielo reale che sto guardando. Oppure significa, nel mondo dei videogiochi, con l'applicazione Look Up, videogiocare a Space Invaders, avendo come contesto, in cui si aggirano gli UFO che devo colpire, esattamente il luogo in cui mi trovo. Quindi un prato, un incrocio, una stanza, il vagone di un treno. Siamo anche già molto abituati, perché siamo entrati nell'era 3D, quindi alle animazioni 3D, che tra l'altro stanno evolvendo verso l'eliminazione dei famigerati scomodissimi occhialini, e che ci prepara, insomma, all'arrivo della realtà aumentata come nuova esperienza di tecnologia nel quotidiano. L'ennesima novità del mondo videoludico arriva sempre da Nintendo, che annuncia l'uscita il prossimo 26 febbraio della prima console in 3D senza occhialini. Si chiamerà 3DS e sembrerà, come si dice, che Super Mario e i suoi funghetti spuntino proprio fuori dallo schermo. Fra i primi a parlare di realtà aumentata, lo scrittore Bruce Sterling, uno dei padri del cyberpunk, il filone che proietta nel futuro le scienze avanzate. Sterling per i prossimi anni teorizza un ruolo da protagonista per la realtà aumentata, che definisce una sorta di decorazione visionaria della realtà. Ecco che cosa ci aveva detto al proposito qualche mese fa quando lo abbiamo incontrato. Well, there's a lot of different things that can be called augmented reality. Ci sono una quantità di cose diverse che possono essere definite realtà aumentata. A me piacciono di più quelle meno convenzionali, ma se le guardi attentamente, la maggior parte sono un fantasma, come piccoli video fantasma o un effetto speciale che viene importato nello spazio reale tridimensionale. La gente che sta già facendo soldi sfruttando dal punto di vista commerciale la realtà aumentata sta facendo sostanzialmente due cose: pubblicità e wayfinding, cioè le applicazioni per le mappe e la navigazione. E in pubblicità consiste ovviamente nell'usare una sorta di trucco magico per attirare l'attenzione, e ciò è carino, ma solo finché la gente non si annoia. La wayfinding penso sia un'applicazione più importante. È un metodo di usare la realtà aumentata per muoversi in uno spazio tridimensionale, specialmente nelle città. Devo comunque dire che le mie applicazioni preferite sono nei laboratori. Mi piacciono quelle che ancora non funzionano. Quelle che funzionano bene, francamente, mi annoiano. Patrizia, anche Bruce Sterling, lo abbiamo appena sentito, usa una delle parole chiave per questo fenomeno, che è il divertimento. Ma per il consumatore, ad esempio, parlando ora di prodotti, di comunicazione, è puro divertimento o c'è qualcosa di più? Diciamo che siamo agli albori del binomio realtà aumentata, mondo dei consumi, però già si vede un passaggio dal puro entertainment, cioè l'uso divertente della tecnologia un po' fine a se stessa, diciamo, ad applicazioni più funzionali. Per esempio, biglietti da visita cartacei con il marker dell'augmented reality. Inquadrando questo biglietto dal computer o dallo smartphone, possiamo vedere generarsi un'animazione. Allora spunta il mezzo busto o la nostra faccia che ruota, si muove, parla e si presenta, e raccontiamo la nostra biografia professionale. Quindi un modo nuovissimo e molto efficace di sviluppare il personal branding. Non è difficile prefigurare applicazioni future della realtà aumentata per la pubblicità come nuovo generatore di interesse, e qualche bel caso da raccontare c'è già. Leo Burnett Mosca ha fatto una campagna per il WWF su un controverso tema, che è la caccia della tigre siberiana che ne sta provocando l'estinzione. Bene, sono state distribuite in alcuni concept store di Mosca delle t-shirt bianche mescolate ad altri vestiti, ad altri accessori del negozio, con stampato il muso della tigre e il solito marker, che inquadrato dallo specchio con webcam del negozio oppure davanti al PC quando la si indossava e ci si collegava al sito dedicato, si sentivano gli spari delle armi e se ne vedevano gli effetti, cioè le chiazze di sangue sulla maglietta. Io ero davanti a quello specchio, passavo davanti a quello specchio e improvvisamente sentivo il suono degli spari e diventavo chiazzato di sangue. L'effetto è a dir poco scioccante. Questa campagna ha avuto una grandissima risonanza sui social media, con centinaia di migliaia di persone che si sono espresse a favore o contro diciamo il tema in oggetto. Ma per settori come cosmesi e moda, pensiamo, nei quali il try before you buy è un'esperienza decisiva per il processo decisionale d'acquisto, cioè provare, toccare, applicare i prodotti, la realtà aumentata potenzia moltissimo questo momento, allungandone i tempi e rendendolo divertente. Si scedola già sperimentato in un negozio di Tokyo con il Digital Cosmetic Mirror, quindi uno specchio interfaccia aumentato che ci consente di fare 1000 prove con i prodotti scelti senza applicarli e rimuoverli ogni volta dalla pelle. E anche L'Oreal ha fatto lo stesso esperimento in Inghilterra quest'estate. E poi abbiamo già anche degli esempi dal mass market. Il marchio di patatine Doritos ha usato questa tecnologia per un'edizione limitata di queste patatine, le Doritos Late Night, lanciate con un evento musicale in cui il biglietto era uno speciale simbolo marker che consentiva dal sito Doritos, inquadrando il pacchetto di patatine, di parteciparvi. Anche nelle trasformazioni del mondo televisivo la realtà aumentata ha già un ruolo e ce l'avrà sempre di più decisivo. Un progetto molto innovativo che voglio segnalare si chiama Surround Vision, è dell'MIT Media Lab ed è un progetto di TV aumentata. Dunque, puntando lo smartphone fuori dallo schermo della televisione che si sta guardando, e per esempio si sta guardando una partita di calcio, si può vedere quella stessa scena in parallelo da un'altra angolatura, o nel caso di altro contenuto, un film per esempio, vedere delle scene aggiuntive che sono state girate per esempio nell'incrocio o nella zona accanto alla scena che si sta guardando. Insomma, guardare al di là dei confini fisici dello schermo. Concludiamo con i musei e le istituzioni culturali che usano, pensate, la realtà aumentata, questa tecnologia, già dal 2003 per potenziare l'esperienza di fruizione dei visitatori. È Street Museum che merita una segnalazione, un progetto a cielo aperto del Museum of London che permette di vedere, girando per la città, le foto in bianco e nero dei luoghi di interesse storico geolocalizzati che compaiono sul nostro schermo dell'iPhone in 3D e creano questo straordinario effetto sfondo figura tra le foto digitali che vediamo sovrapposte al paesaggio reale nel quale stiamo passeggiando. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Rotterdam su realtà aumentata e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ben ritrovata, Alessia. Grazie, un saluto a tutti. Ecco, abbiamo visto che le applicazioni della realtà aumentata sono veramente le più diverse. Interessante è quella sviluppata dal NAI, l'Istituto Olandese di Architettura, e cioè la prima applicazione per smartphone di Urban Augmented Reality. L'applicazione si chiama Sara, è stata lanciata lo scorso febbraio ed è scaricabile dai sistemi operativi mobili sia di iPhone che Android. Attualmente è disponibile solo nella città di Rotterdam, ma il piano del NAI è ben più ambizioso: fare dell'Olanda entro i prossimi 5 anni il primo paese in cui tutte le architetture siano visibili dagli smartphone attraverso questa applicazione. Che fa cosa? Permette, puntando la webcam del telefonino, come si diceva, su un edificio o un sito, di vedere modelli in 3D, video, fotografie di come erano in passato e o di come saranno in futuro queste costruzioni. Il primo edificio osservabile è stato il mercato coperto. Usando Sara si può vedere sovrapposto alla realtà fisica il progetto degli architetti MVRDV e quindi l'aspetto finale che l'edificio avrà a lavori finiti. L'applicazione permette inoltre agli utenti di aggiungere informazioni sulle loro architetture preferite, informazioni testuali quindi, e di creare il proprio percorso urbano personalizzato. A questo punto non è difficile immaginare l'impatto a dir poco rivoluzionario che questa tecnologia può avere sul turismo e sulle possibilità virtualmente illimitate di fruizione degli spazi urbani e delle loro architetture. Grazie Alessia. Patrizia, la realtà aumentata farà la fine del mini disc, tanto per citare un esempio di tecnologia abbandonata, tecnologia flop, o sarà davvero, come dice Sterling, la tendenza su cui puntare, sarà la protagonista del futuro? Ma dunque, in effetti si parla da quasi 20 anni ormai di augmented reality e quindi la tecnologia c'è, ma non è mai decollata perché, come sempre, è proprio l'uso quotidiano che ne decreta il successo o l'insuccesso. Dunque oggi, con il dilagare degli smartphone che hanno svincolato le webcam dai computer, quindi hanno reso mobile la fruizione della parte aumentata della realtà, le possibilità applicative per i consumi e la comunicazione diventano non solo possibili ma infinite, perché dai cartelli stradali ai carrelli della spesa, all'editoria, ai musei, destinazioni turistiche come abbiamo sentito, ma anche alle scuole, cioè è facilissimo intuirne l'efficacia proprio come effetto speciale che entra nel quotidiano. Quindi il futuro prossimo è certamente un futuro aumentato, perché ognuno di noi avrà uno smartphone con telecamera con sé da puntare. Il gesto soprattutto è un gesto facile, non costa, e se l'offerta sviluppa i contenuti giusti, certamente la realtà aumentata diventerà la killer application per la comunicazione e il marketing. Si chiude qui questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre, come tutte le altre, dal nostro sito radio24.it, in attesa di risentirci domenica prossima dopo il GR delle 16. Non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.